Torniamo quindi a parlare di decrescita ad entropia massima, lo facciamo con un articolo di Vincent Ligier comparso su Le Monde Diplomatique. Elogio della decrescita, di cui vi proponiamo una sintesi. Si parte dalla considerazione che viviamo in un mondo finito e dunque immaginare una crescita infinita è una mera illusione. La decrescita invece è quello che apre delle prospettive reali, concrete, non impossibili, quantomeno, di giustizia sociale, di emancipazione e di gioia di vivere. Cosa significa crescere? Crescere annualmente del 3% sul prodotto interno lordo significa che dopo 24 anni abbiamo raddoppiato la produzione, quindi se abbiamo raddoppiato la produzione abbiamo raddoppiato anche il consumo. Questi sono i numeri, e se lo facciamo diciamo per un secolo andremo incontro ad una moltiplicazione per 18 volte della produzione e dei consumi. E quindi decrescere che cosa vuol dire? Vuol dire diminuire, ma in realtà più che altro decrescere significa un po' abbandonare l'approccio quantitativo tipico dell'ideologia della crescita e magari pensare a qualcosa di più qualitativo che insomma riguardi le nostre attività, le nostre vite, sperimentare delle modalità altre, soddisfare le esigenze di base che tutti e tutte hanno in un modo sostenibile, ma anche in un modo giusto e conviviale. La crescita, la religione della crescita, così la chiama Vincent Ligier, è ancora egemone anche tra gli ambientalisti, e questo è importante dirlo. Infatti oggi, come insomma più volte abbiamo ricordato, si scommette su questo disaccoppiamento, così lo chiamano, no? Quindi si continua ad aumentare la produzione di beni e servizi, perché questo impone la religione della crescita, ma lo si vorrebbe fare riducendo gli impatti ambientali e riducendo il prelievo delle risorse. Ora, diciamo che sarebbe molto bello se fosse possibile. Vediamo un po' invece di scontrarci con le leggi della fisica che ci dicono che non saremo in grado di sostituire i combustibili fossili. Carbone, petrolio, gas costituiscono ancora oggi l'84% del nostro consumo. Quindi insomma diciamo che siamo un po' lontani dall'obiettivo, quantomeno. Se non c'è una fonte di energia equivalente che sia facilmente immagazzinabile e trasportabile, peraltro, sufficientemente densa di energia, che anche il discorso della densità energetica è importante, insomma, no? Insomma, il classico esempio che si fa: se prendo un uovo e lo metto nel lago di Bracciano, mi aspetto che i raggi del sole picchiano su quel lago lo facciano diventare sodo. Ebbene, lo vado a riprendere anche dopo un'ora e il mio uovo non sarà sodo, non sarà stato cotto per niente affatto. Quindi esiste un discorso di densità di energia che ha a che vedere appunto con la quantità per unità di tempo, per unità di superficie, per unità di volume, insomma, le varie articolazioni delle misure di densità. Quindi deve essere sostanzialmente un'energia che sia facilmente producibile, facilmente sfruttabile, trasportabile, immagazzinabile. Non c'è questa energia qui, al momento non c'è. Quindi chiaramente l'orizzonte di ridurre i consumi energetici è l'unica vera soluzione. E ci sono stati molti investimenti sulle energie rinnovabili, l'eolico e il solare, però forniscono meno del 3% dell'energia primaria mondiale e richiedono materiali diciamo piuttosto scarsi per la produzione dei sistemi atti a sfruttare queste forme di energia, materiali come il rame, come le terre rare, e quindi E inoltre chiaramente hanno bisogno anche di spazi, quindi ritorniamo sempre al punto di partenza, cioè è come se si vuole risolvere un problema, ma alla base di questo problema c'è la crescita, cioè è come se appunto facendo un'altra, usando un'altra immagine che spesso si utilizza come suggestione per spiegare insomma la decrescita, se ho una vasca da bagno che si sta riempiendo di acqua. E provo a pensare a dei metodi per togliere quest'acqua, perché prima o poi la riempirà tutta. E allora posso toglierla con un bicchiere, però non faccio in tempo perché l'acqua che entra è troppo più veloce di quella che tocco col bicchiere. Allora penso di toglierla con un secchio e per un po' vado avanti, però quella continua a crescere. Poi a un certo punto arriva un ingegnere e progetta una pompa efficientissima che toglie l'acqua dalla vasca. In realtà, l'unico modo per non far traboccare, diciamo, l'acqua da questa vasca è semplicemente chiudere l'acqua, non farla più entrare in quella vasca. Diciamo che è un ragionamento molto banale, però effettivamente, diciamo, inoppugnabile, quantomeno. L'alternativa alle energie fossili esigono tutt'altro approccio, esigono economie sobrie, solidali, aperte, anche delocalizzate, quindi valori come convivialità, autonomia, gioia di vivere, ecofemminismo, il richiamo ai beni comuni, al tempo libero, anche il low tech, quindi tecnologie, no? Non high tech, ma tecnologie più vicine ai bisogni reali, delle persone, delle comunità. E poi ancora altre parole chiave in questo contesto: permacultura, autogestione, reciprocità. In un contesto del genere, in un contesto in cui queste parole assumono senso, significato e diventano pratiche concrete, allora sì, c'è spazio per l'innovazione tecnica, che chiaramente noi portiamo sempre avanti con questa trasmissione. Noi parliamo di scienza, di tecnologia, perché siamo fondamentalmente degli appassionati di scienza e di tecnologia e sappiamo che questo può fare la differenza, però la può fare se il contesto è questo appena descritto e non quello classico invece in cui purtroppo siamo calati, cioè lo spazio della crescita e soprattutto della religione della crescita. Un altro tema importante è quello dell'aumento della popolazione mondiale, che sta diventando veramente insostenibile. Storicamente è sempre avvenuto che, raggiunte determinate condizioni di vita, diciamo accettabili, e livelli di istruzione sufficienti, le popolazioni riducono per scelta il numero di figli. In un centinaio di paesi, sparsi un po' in tutti i continenti, c'è già un tasso di fertilità inferiore alla sostituzione generazionale. Si prevede però che raggiungeremo in pochi decenni i 10 miliardi di persone, ma il tasso di fertilità è alto solo in una parte dell'Africa subsahariana, dove sono molto problematici l'accesso all'acqua e una sufficiente alimentazione. L'invecchiamento della popolazione, in cui siamo, che rappresenta il nostro attuale orizzonte, richiede più risorse e tempo per la salute, per la cura, per i servizi, per anche una ricerca di alimenti di qualità delocalizzati, quindi evitando appunto di fare trasporti insostenibili, che favoriscano la rigenerazione della biodiversità, e anche, avremo anche bisogno di diminuire il consumo di carne, che rappresenta uno dei fattori più critici. Come è noto, nelle emissioni di gas serra e nel consumo del territorio, in generale nel consumo di risorse, dati quali sono i livelli di consumo totalmente insostenibili di questo tipo di alimenti. Questo senza neanche invocare il discorso specista che è alla base dell'allevamento, no? Questo naturalmente è un'altra cosa che noi portiamo avanti sicuramente sia come entropia massima che come radio, che sicuramente deve essere inclusa in questo discorso, ma anche non facendo questo discorso, comunque si arriva a una considerazione. Anche questa piuttosto ovvia, diciamo, piuttosto inoppugnabile. Abbandonare il capitalismo, certo, abbandonare il capitalismo è necessario, ma ci dice Ligi, non è sufficiente. Bisogna rinunciare anche al produttivismo, al consumismo, che poi sono chiaramente degli aspetti del capitalismo, aggiungiamo noi, no? Altre ricette che ci fornisce l'autore: criticare radicalmente il tecnoscientismo. Questo ci trova pienamente ragione. Cioè, questa idea secondo cui la tecnologia può risolvere ogni problema. La civiltà occidentale moderna è stata imposta con la violenza, prima ai contadini inglesi nel XVI secolo e poi con la rivoluzione industriale nel XIX secolo in tutto il mondo. Solo attraverso la riduzione dei consumi del nord del mondo consentiremo al sud del mondo di liberarsi dello sfruttamento a cui è sottoposto, sfruttamento sia di risorse e sia di popolazione. Ad esempio, il cobalto del Congo è utilizzato nell'industria del digitale, delle nuove tecnologie, il litio della Bolivia è utilizzato nella produzione di batterie elettriche e il Nord è responsabile del 90% delle emissioni climalteranti mondiali, quindi diciamo che questi paesi vengono sfruttati per consentire al Nord di produrre e consumare ed inquinare. Quindi alla luce di tutto questo, insomma, alla fine dell'articolo si traggono delle conclusioni che vorrebbero, come dire, indirizzare, no, un po', delle azioni di cambiamento. Reddito di base incondizionato, diritti individuali di prelievo dei beni di base, acqua, cibo, energia, abitazioni, luogo per vivere, per svolgere le proprie attività. Quindi diritti individuali di poter accedere a tutto questo. Di accedere ai servizi pubblici, istruzione, salute, trasporti, informazione, cultura. Ecco, sono cose che, insomma, abbiamo sempre detto. Democrazia diretta diffusa e deliberativa, quindi dal basso, nel dialogo, nella formazione di discorsi e di meccanismi anche decisionali. Diciamo comunitari, ecco, per stabilire cosa, come e per quale uso produrre. Quindi decidiamo insieme che cosa dobbiamo produrre, come lo dobbiamo produrre, per quale uso, per quale motivo, no? Cioè, ristabiliamo insomma insieme quali sono le esigenze e poi stabiliamo cosa fare. Cioè, questo sarebbe la norma, no? È il modo normale con cui uno pensa di affrontare le cose. Probabilmente, diciamo, era anche così, è stato anche così fino a un certo punto storicamente, fino a che invece poi con le distorsioni totali introdotte dal capitalismo questa cosa è naufragata nel disastro attuale che ci impone di dire l'ovvio quando parliamo di decrescita, quando insomma prendiamo in considerazione questi testi, diciamo delle cose davvero ovvie, anche ingenue sembrano, no? Eppure siamo costretti a farlo, data l'assurdità di tutto ciò che vediamo e che abbiamo visto in questi decenni e secoli di capitalismo. Quindi, tetto massimo ai redditi, ridistribuzione della ricchezza, eliminazione dei debiti iniqui, radicale cambiamento del ruolo delle banche e del denaro. Ecco, diciamo che questo tipo di proposizione chiaramente. Arriviamo a dire qualcosa che necessiterebbe di un approfondimento mo molto maggiore, però insomma alla fine dell'articolo viene presentata anche questa fondamentale prospettiva di cambio radicale anche del sistema nel suo complesso e di come esso insomma sia legato, sia composto da banche e da denaro. La decrescita, rimette in discussione il rapporto con il tempo, con i territori, il rapporto con gli altri e le altre, con le attività, con i bisogni, con le abitudini, e progetta, ci dice Ligi, progetta la riappropriazione dei desideri, liberandoli dalla pubblicità e dai media, funzionali alle disuguaglianze e agli sprechi. Quindi, una riflessione che, insomma, non è cambiata. Le riflessioni sulla decrescita noi le abbiamo proposte per vari anni. Era un po' che non tornavamo a parlarne, ci è venuto in mente di farlo, proprio perché, analizzando un po' quelli che sono i numeri, della situazione dei consumi energetici che vi presentiamo durante queste puntate e soprattutto prendendo in considerazione quelle che sono le misure governative dell'attuale ministro della transizione ecologica. Insomma, ci sembrava opportuno riporre nuovamente l'accento sul tema più importante. È quello dei consumi e dei consumi fuori controllo rispetto invece al puro e semplice, diciamo, parlare di nuove forme di energia che in modo salvifico dovrebbero risolvere il problema del riscaldamento globale. E quindi dovrebbero porre fine a tutti i rischi che esso si porta appresso.